Ecco, noi ci presentiamo, noi siamo gli appiccicaticci e ci chiamiamo così per tanti motivi. Intanto perché abbiamo molto vicini e poi certo. Soprattutto è vero. Siamo sempre insieme. Siamo sempre insieme, condividiamo la stessa donna. La tua. No, è la tua, diciamo. La tua, e siamo, diciamo, nel panorama romano siamo molto famosi, ma pochi lo sanno, oppure fanno finta di non saperlo. Noi invece. Mamma in particolare lo sa, sì. È molto contenta. E... Ciao mamma, sono ciao. Qua con le appiccicatici. Puoi vantartene di questa sì, cosa, sì, sappilo. Infatti. Tutti quelli che escono con noi di solito rimorchiano, noi no. Quindi questo. Senti, due su tre, il terzo che cosa è? Il terzo lo salutiamo, è Stefano Augeri. Io credo che, spero abbia un cellulare o una radio, perché non sappiamo effettivamente. Ciao Stefano, ovunque tu sia. Abbia fatto, speriamo che sia con noi. Abbiamo perso le tracce a mezzogiorno e mezza, ma a questo punto. Sul K2 era l'ultima volta che abbiamo sentito. Che era la gelateria quella. Cioè, certo. Stefano, sta casa aspetta a te, fatti vivo. Noi siamo un gruppo di improvvisatori teatrali, sembra così una frase veramente random, in realtà. Però invece no. Noi, in queste 15 ore che saremo insieme, fino a mezzanotte e mezza circa, poi pausa e poi tutta la notte saremo qui. Volevamo insomma giocare un po' con l'improvvisazione. Tra l'altro voi interagite con il pubblico, che in questo caso è Enea Tomei con i fake, che sono qua, perché loro non se l'aspettavano. Neanche noi in effetti. Questa tutto... Non ho mai ricevuto una telefonata che mi avvertiva di questo fatto, vero Federico, la settimana scorsa? No. Quindi per noi sarà un piacere. Quindi chiederemo ai fake ed Enea Tomei. Fake ed Enea Tomei, che Enea è lui. Fake hanno un nome. Dovreste vedere la sua faccia adesso, come dire, ma che cavolo di nome è? Andrea Fabio. Ok, Fabio, se non me li ricordo li chiamiamo i fake e facciamo prima. Certo, chiaro. Facciamo prima così, diciamo, ecco. No, volevamo giocare un po' con l'improvvisazione teatrale. Molto spesso ci diciamo, veramente? È tutto improvvisato. Allora, noi oggi vorremmo fare vedere un po' di piccoli giochi di improvvisazione teatrale. Quello che spesso facciamo in radio è il radiodramma, se sei d'accordo. Sì. Partirei. Ah sì sì, ok, certo, un radiodramma. Ci abbiamo anche la musica live, questa cosa è fighissima e sono... Quindi il gioco sarà questo, anche così per i nostri fake e più radioascoltatori. Non so se c'è un... Ah ecco. Adesso Tiziano si sente. Ora mi sento, sì, perché prima parlavo a caso. Non so se abbiamo una... C'è anche una diretta dove scrivono. No, sì, no, possiamo fare qua tutto. Che scrivono? Se vuoi ti scrivo io qualcosa. No, se vuoi qualcosa scriviamo. Cioè. Sì, no. Però se volete mandare un messaggio a Tiziano, il suo numero. No. Non lo dire. Allora, noi in questa puntata, non so se. Qualcuno ha un lapis? Il gelo. C'è stato un momento di silenzio sul lapis. Non so se è una parola d'ordine per chiedere qualcos'altro. Sì. Oppure è una parolaccia in greco. No, noi non so se sei d'accordo. Abbiamo poi, chissà se con loro possiamo giocare anche con i cantautori. Forse sì. Vabbè, ma vediamo nel corso. Forse dopo. Possiamo. Allora, una delle prime cose che noi facciamo quando facciamo improvvisazione è dimostrare che effettivamente tutto questo è improvvisato. Allora, che cosa faremo adesso noi fantastici appiccicatici? Io non sto perdendo tempo. No, sembra che come stai... sto pensando. No. Stai ho pensando una a cosa fare. Precisa. Allora, solitamente in radio. Ci sono, non so se sapete, quei radiodrammi meravigliosi che sembrano quelle telenovela, quelle soap opere, quelle bellissime di Rete 4, esatto, versione radio. Noi, ecco, vorremmo dedicarvi una puntata di questo fantastico radiodramma, se sei d'accordo. Tu sei d'accordo? Sto qua apposta. Ecco, quindi io chiederei al gruppo due o tre cose. Il primo, se poi quando iniziamo c'è un sottofondo adatto adeguato, all'opera, diciamo così. All'opera da radiodramma proprio struggente, romantico. A voi la scelta, fate quello che volete, improvvisate insieme a noi. La minore. È struggente. La minore. L'ultima volta che uno mi ha detto la minore è finito male. Sappio, quindi. Questa è la prima richiesta. E poi vorremmo sapere, tutti voi, sapete che esistono, ci sono dei radiodrammi che non sono andati in onda, ma che sono molto famosi. Allora, vorremmo chiedere a voi un titolo per questa prima puntata di un radiodramma. Che non esiste, un titolo che non esiste di un'opera, di un radiodramma. Poi se avrà successo questo radiodramma, ovviamente avrà un seguito più là. Sarà merito nostro. Esatto, faremo due o tre puntate, vediamo come può andare. Esatto. Quindi, diteci un titolo. Il teschio e il fiasco. Ah! Il famoso. Che è un locale? No, il teschio e il fiasco. Quello che vedo dalla finestra. Ok. Oddio. Allora, ok, il titolo è inquietante. Ma dove abitate? Scusa, dove sta? Benissimo. Pochi sanno che esiste il teschio e il fiasco. Ce l'hanno data improvvisata adesso. Adesso fammelo scrivere, sta cosa. Il teschio e il fiasco. È il titolo di questo fantastico radiodramma. Noi, quando sentirete la parola onda rossa, così. Esatto. Sarà chiusa la nostra improvvisazione. Non sappiamo quanto durerà, ma poco, perché non c'è meno. Esatto. Avremo un sottofondo musicale. Ecco a voi la quindicesima, sedicesima puntata di Il teschio e il fiasco. Nelle lunghe strade di New York si affacciano una serie di finestre chiuse. Dietro una di queste finestre c'è lui, John. John fuma la sua sigaretta mentre aspetta lei. John è un giovane rampante, è un avvocato di successo, ma gli manca qualcosa. Avanti. Salve. Ti aspettavo diversa, ma tu? Sono la sua segretaria. Sei nuova? Sì. Mettiti seduta. Ah, grazie. Sì, prego. Hai portato la documentazione? Sì, guardi, ho qui tutto. Tu sai che la nostra industria, che produce soltanto due cose, teschi e fiaschi, è unica nel settore. Immagino che li vendiamo. Ma come avete fatto a unire due cose così? Abbiamo un successo strepitoso. Se vediamo, che ne so, una bottiglia di Barolo e dentro un teschio. Che schifo. Vediamo un Montepulciano d'Abruzzo e dentro femore. Che ha? È proprio ossa e. Ossa e vino! Questa va moltissimo. Madonna mia. Domani dobbiamo avere un carico importante per uno dei più grandi cantatori del XX secolo. Chi è? Marilyn Manson. Che ho chiesto? Ha chiesto che vino ha chiesto? Sei bellissima. Toccami qui. Scusa? Toccami qui. Ma come si permette? Io sono il capo. Senti, hanno bussato, vai a aprire. Sono sempre io, hai visto? Ti ho messo alla prova. Bravissimo, volevo vedere, sono velocissimo. Accidenti. Devo andare via, mi scusi. Dove vai? Taxi? Sì? Ma sempre lei. Sempre io. Volevo scoprire se eri veloce. Beh, sì. Tu sei la migliore segretaria che io abbia mai avuto. Vieni, beviamoci su. Ma questo è un malleolo. Esatto. Un malleolo dell'82. Esatto. È ottimo. Sì, hanno bussato al taxi. Chi è? C'è qualcosa per me. È Marilyn Manson. Posso risentire un attimo la voce? No, è andato via. No. No, mi vergogno. Non canta una canzone, Sweet Dreams, scusi, me la canta? È purtroppo andato via. È andato via, senti. In realtà lui è romano, ascolta. Perché non vieni a vivere con me, anche se io sono sposato? Jack, ma che diavolo? Devo dirti un'ultima cosa. Cosa? Ma ora un po' di pubblicità. Ti piace il buon vino? Ti piace un buon bicchiere di vino? Ti piacciono anche le ossa rotte? Ami tantissimo andare nei pub con gli amici, anche se sei pesi 15 kg. Anoressia, pub anoressia. Vieni a bere da noi e scoprirai che puoi passare anche attraverso la porta chiusa. E dalla settimana prossima aprirà anche il ristorante bulimia, per quelli che sono al contrario. Ascolta. Sì. Io Jack. Ti amo. Sì. No, perché hai cambiato voce? No, era quello che pulisce il vetro. Domani la nostra industria potrebbe fallire, ma io... Ma come? Hai detto che andava benissimo. Io non importa se posso amarti. Ti va di fare l'amore qui nel taxi? Ma c'è il tassista, che sei sempre tu. No. E hanno bussato. Ma che è sta? È un porto de mare sto taxi. Chi è? No, quello non è la porta che bussava. Che cos'è? Era qualcosa di... è il mio cuore. È il tuo cuore? Sì. Che c'è dentro il tuo cuore? Questo, la mia chiave. Io ti amo e fuggi con me. Sì, Jack, ma non sai neanche il mio nome. Sì, non importa, domani andremo a Est. Est? Est. Est. Sei contento? Va bene, d'accordo. Sì. È sempre... Ma hai dalle. No, che il cuore, sto per morire, quindi approfitta. No, va bene, malissimo. Proprio oggi che è il mio onomastico. È San Giovese. Sei tu. San Giovese io. Sei tu San Giovese? No, è il santo, ma oggi io mi chiamo Giovese. Dai, allora vieni, domani ci sarà il gruppo che sponsorizzerà tutta la nostra attività. I musicisti. Te li chiamo? Sì. Eccomi! Sei Negramaro. Pensa, si è fermata la musica, mi sta minchiando. Veramente triste. Vieni con me, andiamo a fare un sesso primitivo, ti va? Va bene, dove andiamo? In Manduria? Te lo dirò soltanto nella prossima puntata, perché ora questo vino è come se fosse un... Onda rossa. Oh, questa era la prima puntata meravigliosa. Come andrà avanti? Come andrà? Loro ci fanno gli applausi, ma per pietà. Per pietà, cioè, non è che... ancora finché non vi imparate, questa esatto, era... esatto, okay. grazie è stato... chissà se andrà avanti, come andrà avanti la storia d'amore tra Jack, dopo lo vediamo nella Giovese. nella prossima puntata. Però noi in radio, tu Patrizio mi insegni, possiamo sfruttare soprattutto questo, ringraziamo che sono arrivate una serie di mail che ci dicono perché non ci fate un pezzo muto, lo facciamo, vai. Ok, grazie, poi il prossimo. Grazie. Questa non è una scaletta. No, non è una cosa che possiamo sicuramente fare con l'improvvisazione, che noi quando improvvisiamo possiamo fare cose diciamo un po' più lunghe e anche cose molto brevi. Cos'è che il radio è di grande impatto, Patrizio? Tu mi insegni. Lui chiede a me, ma io non la so la scaletta, e quello è il problema vero. Che guarda voi, credo, perché cosa no. La cosa No, quello che adesso faremo è questo. Il radio è importantissimo sentire più che ascoltare. Cioè, è chiaro, è radio. No, era un gioco. Ah. Non hai capito quello che volevo dire. Vabbè, allora, ma tu, io l'ho mandata ieri la scaletta. No, ma a un'altra fea, non era il mio indirizzo. No, i trailer cinematografici. Ah, chiaro. Cioè, sono molto importanti perché in radio uno li sente, sono talmente a 2000. Certo. Che subito uno li sente e si va a vedere il film. Allora, quello che faremo adesso è questo: noi chiederemo un titolo di un film che non esiste. Sì. E faremo. È anche un genere? Esatto, tre generi. Cioè faremo tre trailer. Esatto. Okay. Tre trailer. E la chiediamo a chiediamo allora gente ai pubblico Fic, in Andrea, sala. Andrea, Enea o anche Federico. No, Fabio. Esatto. Diteci un titolo di un film che non esiste. Un titolo di un film che non esiste. Nel cielo dipinto di giallo. Comunque si drogano questi adesso, ragazzi. Il cielo dipinto di nel giallo. Nel cielo dipinto di giallo. No, il cielo dipinto. Nel cielo dipinto. Ah, scusa, allora è un altro film. Esatto, nel cielo dipinto di giallo. E pochi sanno che ci sono tre versioni di questo film. Certo. Tre versioni di questo film. Quindi adesso le facciamo scegliere almeno una, la facciamo scegliere. Chiediamo a loro. Ah, certo, ok. Dite tre generi cinematografici che vi piacciono molto, cioè che film Dite, uno poi chiediamo. Un road movie quali sono quelli? Quelli che vanno con la macchina sulla strada, road movie, i film che si sviluppano in macchina, fondamentalmente, che non si spostano mai dalla macchina. Ok, un road movie. Poi un altro genere contrapposto, so, anche un regista, un horror perfetto, ok, sì. E il terzo, l'ultimo, fantascienza. Allora vi faremo vedere i trailer. Poi ridete, ma voi dovete fare la colonna sonora del trailer, se no è inutile. Quindi... niente, mi inventate anche con le voci. wow. Cioè, okay. Cioè, tanto è il radio che non dobbiamo vedere come nel cielo dipinto di giallo. Nel cielo dipinto di giallo. Il titolo che ci hanno dato qui è loro che fanno uso di sostanze di cui non possiamo nominare l'entità. Certo. Esatto. Sono tre film che usciranno al cinema. Il primo film è l'horror. Sì. Ed è questo. C'è un'atmosfera horror, cioè vedete, qualsiasi anche bene. Sì. Mi piace. Dai produttori di Quella stanza è solo rosso sangue. Dal co-regista di Non affittate quella porta. E da lo scenografo di Quella nuvola ha un colore strano. L'altra sera era una serata abbastanza particolare. Era un martedì come tutti i martedì. Ma l'ornitologo Franco stava guardando i suoi uccelli come se niente fosse. Sembrava un pomeriggio come tante. Ma quello non è un ornitologo qualunque. Ma che diavolo? Oh. Quando improvvisamente dalla gabbia del settore B uscì lui, un uccello giallo. Era l'albatros. Anche se in realtà era notte. Scene di panico. Scene di sesso assurdo. Fughe improvvise e doppi sensi con gli uccelli. Ma mi piace il tuo uccello. Ma scappare è impossibile quando non si hanno le ali. Ti amo. E quando piove acido, questi uccelli possono diventare gialli. Sì, perché... siamo qui di fronte a un cielo. Il premio Oscar è Giovanni Costantini. La costumista Antonelle Quaron. E per la prima volta sugli schermi Patrizio Cossa. Ciao, ciao. In quel cielo dipinto di giallo, a ottobre al cinema o in tutte le gabbie. Questo era il giallo. Poi pochi sanno che nel cielo dipinto di giallo è anche un film di fantascienza. Ce l'avete una colonna? Iron Mumy lo lascia alla fine. Sì, perché non so ancora che cos'è. Non ho più palle idea, perché non è mai uscito. Pochi sanno che nel cielo dipinto di giallo è l'ultimo film di fantascienza. Immaginate un mondo lontano milioni di anni luce. Guarda Eva, quello laggiù una volta era la Terra. Soltanto due uomini sono sopravvissuti, Eva ed Evo. Evo, perché mi chiamo Eva? Non lo so, è da tanto tempo che siamo qui. Accidenti. In questo mondo i soli si moltiplicano come se niente fosse. Guarda, un altro sole, è l'82esimo da stamattina. E non ci sono creme abbronzate. Mi sto spellando. Soltanto Eva e Evo, che hanno la melatonina 2000, sopravvivono. Evo, passami un po' di melatonina, ti prego. Un viaggio che li riporterà sulla Terra. Guarda, questa una volta era New York. Territori inesplorati. Ma lì c'è un taxi e dentro ci sono un uomo e una donna. E forse un amore che potrà regnare fra Evo e Eva. Evo, ti amo. Ce la faranno Eva e Evo a ritornare sulla Terra? Oh, mancano soltanto 6 secondi. Il portellone sta per chiudersi, dal ti prego. Dal regista pluripremiato Steven Spielberg, il figlio di 12 anni. Dai produttori di Esercito delle 12 Capre. Un film che vorreste mai vedere al cinema. Un effetto incredibile. Quando il sole si tinge di giallo. Quando il cielo si tinge di giallo. Quando la vostra pelle si tinge di giallo. Quando questo film comunque non è un giallo. Andate al cinema a vedere Nel cielo dipinto di giallo. A ottobre, forse. Al cinema. Chissà quale sarà. Tanto io ringrazio la colonna sonora, la band veramente che ci supporta. Ma pochi sanno, anche io dall'altro. Certo. Che cos'è un road movie? Intanto pochi lo sanno, ma è un film sulla macchina. Cioè, hai detto sulla macchina. Tipo Fast and Furious, c'è il film sulle macchine. Tipo Thelma & Louise. Cioè quello è il classico. Vero? Allora, certo. Esatto. Allora vediamo come nel cielo dipinto di giallo è un trailer di Easy Rider, esatto, di road movie. C'è un film, no? C'è un trailer che si chiama Nel cielo dipinto di giallo. Di yellow. In the sky. Certo. In the sky dipinto di yellow. Ed è così. Telmo e Luigi vivono da soli. Luigi, passami il sale. Telmo vive in un McDonald's e non riesce a portare avanti il proprio lavoro. Accidenti, anche oggi non sono riuscito a vendere neanche un Happy Meal. Luigi è il fratello di Mario e non ha avuto mai successo nei videogame. Ciao Mario, accidenti, perché non smetti di fare l'idraulico e vieni a darmi una mano al McDonald's? E poi hanno la stessa voce anche quando si parlano. Ciao Mario, ciao Luigi. Oh mamma. Parapapapapà. Un viaggio che li porterà alla ricerca di se stessi. Sì, scappiamo insieme, ti prego. Dai Telmo, andiamo. La colonna sonora fantastica dei Fake Enea. Guarda questo Grand Canyon. Che cosa ti ricorda, eh? Oh, passeggiate romantiche alla ricerca di una propria identità. Ma quello sembra mio nonno. Piccole incomprensioni. Che ti tocchi? Perché mi baci? Non mi do... E un'amicizia sconfinata. Ti voglio bene. 14 ore ed è un film pluripremiato al cinema. Ma non c'è più benzina in questa macchina. La faranno a piedi. Ma sei sicuro? E soprattutto una pioggia che non è blu e non è neanche trasparente. È assolutamente gialla. Un amore che porterà i nostri due eroi a riconciliarsi, a fare l'amore sotto i pioppi del Texas. I famosi pioppi del Texas, come non riconoscerli? Un road movie ambientato nel Grand Canyon, nel Wyoming, dell'Illinois e a Frascati, un viaggio incredibile, lunghissimo. Wyoming Frascati, un viaggio che porterà i nostri due eroi a riconciliare ormai una vita perduta. Ma dove? Sotto un cielo dipinto di stelle? No, sotto un cielo dipinto di nuvole. No, no, nel cielo dipinto di giallo. Al Natale a Frascati e in tutti i cinema del Wyoming. Rock me mama like a wind and a rain, rock me mama like a southbound. Bello, che meraviglia, era quasi più figo road movie. Pensa, vorrei andarlo a vedere. Io non so, anzi, vi chiedo quale dei tre vorreste andare a vedere. Questa è la cosa. Lanciamo il sondaggio, lanciamo il sondaggio, lanciamo subito. Su Ritro, su internet, su Ritro. Mandiamoci messaggi tra di noi su WhatsApp, ci scambiamo i numeri e via. Ma non so se sei d'accordo. O vogliamo raccontare la vita di. Oppure. Sì. O anche. O invece. No. No, so se, non so l'altro, se mi dai l'alternativa ti no, dico la storia d'amore. Non so se... Ah, la storia d'amore. Tu te la senti? Sì, tanto ormai. Ma i nostri ascoltatori sono pronti? Io... Il pubblico è pronto. Non so se... Ci hanno mandato una serie di mail e ho scritto perché non parlate mai d'amore. Esatto, perché allora lo vogliamo fare qui. Cioè, c'è uno di voi qua dentro che è fidanzato, sposato, che ha una compagna? Ecco. Prendiamo Enea, che ha un nome anche epico. Sì, c'è. Allora, quello che vorremmo raccontarvi per radio è una fantastica storia d'amore meravigliosa fra Enea e la sua. Posso chiedere come si chiama la tua compagna? Roberta. Ma scusa, Enea. Possiamo chiamarla al telefono? Ma no, è bruttissimo. Non è mai successa questa cosa. È una variazione. Dicono tutti così. Già. No, ecco, volevo chiedere dove vi siete conosciuti? Intanto siete sposati, fidanzati? Sposati. Quant'è però? Da quanto siete sposati? Da 12 anni. Niente, è una vita. Ma invece vi conoscete da 13. Cioè, siete visti o sposati? Esatto, che fai domenica? Sposiamoci. Ma io però la sapevo diversa. Cioè, siete sposati da 13 e vi conoscete da 12. Ah, si sono sposati anche prima. Anche questa potrebbe essere una buona prima chiave di lettura. E senti, dove vi siete proprio conosciuti? Cioè, visti la prima volta. Andiamo bene, ecco. Speriamo non stia la fine di un matrimonio. Niente, vabbè. Allora, dunque, correva l'anno. Le trasmissioni riprenderanno il più presto possibile. A teatro. Ti ricordi anche che state vedendo? Così. Ma se non ti ricordava manco il teatro. Cioè. Lavorando. Ah, lavorava. Facciate gli attori? Sì, lei era regista dell'attore. Ah, che bella storia. Romante. Ti ricordi anche che opera era così? Sognate le mezze Luigi Pirandello Spielberg. Ok, senti, adesso ti faccio questa domanda così, adesso anche se non c'è la roba. La prima cosa è fisicamente, quando l'hai conosciuta però, l'hai vista e hai detto, una cosa è fisicamente, siamo in radio, faccio più in diretta, una cosa è fisicamente proprio mi ha colpito subito, ed è, io non l'ho vista, non la conosco. Il volto, non gli occhi, la bocca, no, proprio la faccia, il volto. No, è vero, il volto. Senti, ti rendi conto che è una cazzata, ma questo, cioè, senso, no, l'importante è che tu lo sappia questa cosa. Senti, bravo. E secondo te invece, Roberta, che cosa ha notato fisicamente di te, che dici che non può essere il volto? I capelli bianchi. Che già c'avevi, cioè all'epoca c'avevi i capelli bianchi, ma no. No, c'avevo le mesh, cioè. Avevi le mesh? Sì, che però erano decolorati, diciamo. No, no, è bellissimo sentirvi. Ah, sì, ecco, infatti. Tanto ripetiamo. Le mesh, col mese, erano scolorite, per cui erano diventati bianchi. Questa la tagliamo, Ah, aveva delle mesh bianche. Adesso, poi tanto rifacciamo un riassunto, poi vi spieghiamo questa cosa meravigliosa. Certo. Tranquillo. Sì, ecco. E volevamo soltanto chiederti: che lavoro fate attualmente? Tu sei musicista? No, attore. Cioè, attore. Cioè, non lo so, effettivamente. Attore. Problemi. C'hai dei buchi di memoria. E lei è sempre regista? Sì, sempre. Okay. Senti, posso così raccontiamo una storia d'amore? Senti, e così lo chiediamo anche a loro: il più bel pregio caratteriale che ha Roberta? Roberta ha tanti pregi caratteriali, ma soprattutto è paziente. Segnalo. E il difetto è che ogni tanto fanno parte dell'amore, qualche volta è saccente. È stato, la sa sempre lei. La sa sempre lei. Okay. La sa, invece chiediamo ai però chiamo a loro, certo. I tuoi colleghi, amici. Senti, invece un pregio caratteriale che ha Enea. Enea. Porta sempre la, da bere in sala. Ah, questo è un pregio caratteriale. Un'amicizia che si fonda, su basi solide. E invece liquide più che altro. Certo, chiaro. È un difetto ogni tanto, qualche volta. Se beve tutto lui. È poco paziente. Si fa pure lei, lei paziente, lui poco paziente. Si arrabbia facile. Si incazza facile. Sì, proprio un'ultima domanda, poi adesso vi spiego perché, che è una sorpresa un po' per tutti. Avete una fobia personale, che ne so, i topi, i ragni, la pazienza? Io le api. Le api. E lei? Roberta ha paura dei... De me. Lei ha paura, di lui. De come lo de vede, me. Scappa. Senti, in intimità come vi chiamate? Posso chiedervi anche regista mio, onore, regista mio a Torino, a Petto. Ma fai tu. Fai tu. Tu chiami Roberta, fai tu. Fai tu. E lei come ti chiama? E lei come ti chiama? Faccio da sola. Ah, che bella storia d'amore. Allora, comunque, c'è un motivo ben preciso. Tanto ringraziamo anche, Roberta. C'è un motivo ben preciso. Ringraziamo anche Roberta che dopo questa cosa finirà questa storia. 13 anni saremo responsabili di tutto questo. Allora, succederà questo. Intanto facciamo un riassunto. Dunque, Roberta e Enea si sono conosciuti 13 anni fa. Si sono sposati dopo un anno. Sì. E si sono conosciuti durante un sogno notte di mezz'estate di Shakespeare. Erano lì, lui faceva l'attore, lei faceva la regista. E lui ha notato il volto. Pensa, poi non sappiamo lui che faceva, poteva pure l'albero. Quindi non sappiamo che ruolo c'aveva. Esatto, Lui ha visto il volto di lei. E lei ha notato invece, le mesh di lui. Pensa che storia veramente d'amore. Il più bel pregio di Roberta è che Roberta è paziente. Il difetto è che la sa solo lei. Madonna, mi viene niente. Come non gli si può di niente, lei la sa. Il più sa bel tutto. Pregio caratteriale di Enea è che porta da bere agli amici. Porta da bere. Il difetto, però, è che si incazza. È che si incazza. Si arrabbia facile. Lui ha paura delle api. Lei ha paura di lui. Che ha paura delle api, è tutta a catena. Quindi, cioè, se arrivano le api e lui corre, lei scappa. Perché il gioco è che a domino. Esatto. Lui l'entità chiama, fai tu. Sì, e lei vabbè. Perché abbiamo chiesto questo? Adesso vi racconteremo la storia d'amore, anche per Federico è una sorpresa, esatto. La storia d'amore fra come sono andate esattamente le cose tra Enea e Roberta. 13 anni fa. Faremo prima Enea con l'amico, poi Roberta con l'amico o l'amica, e poi i due che si incontreranno. Certo. Vedremo il passato, penso, il presente e anche il futuro di questa fantastica storia d'amore. Quando i due si incontreranno, vi faremo cenno, ci potete dare una momento proprio strappacore, la minore dei vostri, ecco, di quelle strappalacrime. Ok, racconteremo la storia d'amore e si chiuderà sempre con la parola onda rossa. Questa è la storia d'amore, ma è questa. Essere o non essere, questo è il problema. Sta zitto, più nobile morire. Oh, ti ho detto che devi stare zitto, è chiaro, mi fa incazzare quando mi fa stare. Devi stare zitto. Zitto che non ti sopporto, ti schiaccio. Te stappo. Guarda, ho portato da bere. Ecco. Vedi una cosa. Ecco. Sì, no, scusa, ti volevo dire che ti aspetta, non ti arrabbiare. Aspetta, avete andato a che se faccio il monologo. Si chiama monologo perché parlo da solo. Se no, era un dialogo. Sono il tempo. Te odio, una capocciata. Aia! È chiaro. Signore Enea, sono il sostituto, l'altra è morta. Se perde meno la pazienza, dimmi. Ma no, che c'è la nuova regista. Bevi della cosa. C'è la nuova regista. Aspetta, davvero a caso. Non abbiamo più frigoriferi. Chiara Bida, capito. La tengo qui. Sì. C'ho il frigo bar portata. S'arrabbi. Che cosa vuoi dire? No, che le prove sono slittate da un quarto che d'ora. Cosa stiamo dicendo? Un quarto d'ora, maledetti. Enea, salve, sostituto ancora. Ancora. Se la smette. Fra 10 minuti scena. Sere. Nel frattempo, nella cabina di regia. Roberta? Roberta? Mi scusi, regista. Roberta? Oh. Roberta? Roberta? Oh. Pazientiamo un po'. Ho capito. No, aspettiamo. Che stiamo in attesa. Zitto. La musichetta. Ho capito. Senta, che pazientiamo. Siamo tra 10 minuti. No, siamo 10. La scelgo io perché la so io. Intanto i minuti sono 12. No, fare così con le mani che siamo in radio, quindi è sbagliato. La so io. È così, come ti chiami? Io, sì. No, da oggi Franco. Decido io. Ma sa donna. No, da oggi ti vieni maschietto, sono perché la lo so assistente. Io la so che funziona così. Ho capito. Tattiro. Ma perché mi metti la testa? Abbracciami, abbracciami. Ma sentiamo un altro po'. Senta, dobbiamo andare in scena, io non so che fare. Abbracciamoci. Ma che ci abbracciamo? Sì, giochiamo a carte. Sì. A carte. La so io che giochiamo, ho vinto. Ma non abbiamo non ho manco mischiato le carte. Ho capito. Sì, ho vinto. Perdiamo del tempo. Ah, con calma, guardi un attimo. Sul palco mi dovrebbe scegliere l'attore che fa. Allora, quello è biondo. Quello che porta il caffè. Quello è mo. L'ha visto? Non ci posso credere. Si è messa paura? Ma è giovanissimo ed è già brizzolato. Hai visto? Oddio. Allora. Mesce subito e vado. Vada, è bellissimo. Come si chiama? Non lo so, scendiamo giù. No, no, la so io. Facciamo, si chiama Enea. Non importa, scelgo io. Ma il nome del merda? No, mi deve. No, merda, cacca. Si scelgo si io. Si chiama Carlo. Perdiamo del si tempo. Chiama Carlo. No, scegliamo che Enea. Vabbè, alla fine. Allora, la so sempre io. Okay. Perdo del tempo. Lo vado bene. A chiamare. No, perdiamo del tempo. Guardiamoci un film. Che se vediamo? Non lo so. Per perdere il tempo, sono paziente. Il Signore degli Anelli, versione italiana. Vediamoci il paziente inglese. State paziente, certo. Quindi. Scendo subito. Va bene. Ah, essere, la sto provando. Oh, non è... Ciao, tu sei Carlo, oggi Enea, ciao. No, mi chiamo Carlo. Ciao, Enea. Non mi Enea. Chiamo, ho detto Carlo. Attattiro, guarda che sono paziente, puoi fare l'amore a voglia. Ma, te. Ma tu sei la regista. Sì, guarda bene i miei contorni. Ciao, c'hai due occhi, che sarà una terza di occhi. È il volto quello. Ah, scusa. Sei un volto meraviglioso. Oh. Sei bellissima. No, la scelgo io, sono meravigliosa. E vabbè, sei meravigliosa. Sempre io. Ho capito, se metto il cartello. Non mi devi contraddire, che a me mi fa incazzare, è chiaro. Ma non è una storia. Tieni, beviti una cosa. Okay. Fa la... Senti, ti va di andare in giro? C'ho il mio motorino. Sono le 6 e quarto di pomeriggio, già sto ombriaco. C'ho il mio mezzo di locomozione. Che c'hai? Un'ape. No. Oh, sveglia. Sveglia. Sveglia. No. Che è successo? Ho detto c'ho un'ape. No. Non ti preoccupare. Fatti un po' vedere? Girate! Oh. Oddio! Che c'è paura? Sì, ho paura di te. Perché c'è paura? Ormai è così la nostra storia. Guardami attraverso lo specchio. Ok. Tipo la medusa. Andiamo. Vuoi sposarmi? Non lo so, ma non. T'ho detto che mi devi sposare, che mi fa incazzare! Però, vabbè, sì. Ah. Sì, sì. Però mia mamma si chiama Elisabetta. No! Scusa, non te lo faccio più. Ah, devi far finire. Come mi hai chiamato? Aspetta, mi giro, prova a chiamarmi. Chi è? Puoi chiamarmi Questo era perché sono paziente, capito? No, ma chiamami cioè... mi piace. Io non mi ricordo come ti chiamerò. Fai tu. Fai tu, Sì. Che bello. Che bella storia nostra. Facciamo l'amore? Però scelgo io. Cosa? Quando fare, come l'organo. Perché sono paziente, la decido io. È così. Ah, quanto ci metti? La so io, è così. Vabbè, allora. 10 anni dopo. Amore? Amore che? Chi ti ha detto niente? Amore, il nostro figlio l'ho lasciato a scuola. Barolo? Sì. L'ho lasciato a scuola. Il reprise. Gli ho detto di essere paziente, lo riprendiamo lunedì, anche se oggi è venerdì. No, è una settimana che sta là. Ma devi stare calmo, lo so io. Poi non andrà più a scuola. Perché? Mi insegno io, non capiscono niente loro. Ma tu sei la seduta. La so io. Esatto, la so io. Io ti amo sempre come il primo giorno. Facciamo altri figli? Sì, piatti una cosa. Basta, bene. Scusa. Ah, devi smettere. Scusa. Sono 10 di mattina. È un nuovo liquore. Ho capito. Si chiama il nostro figlio va a scuola, è briano. Non possiamo andare avanti così. Lascia perde. Sai come si chiama questo liquore? Come si chiama? Si chiama Onda Rossa. Onda Rossa. Grazie Enea, grazie Enea. Grazie. È andata così. È andata così. Grande. Parte le sciatusce, poi per il resto c'era tutto. È andata così. Io non so se posso chiedere a loro. Cioè, un altro modo in cui noi giochiamo con l'improvvisazione, se sei d'accordo. Ma no, io non sono d'accordo di niente, non mi hai detto nulla. No, noi abbiamo anche degli nostri amici cantautori. Non so se possiamo chiedere. Che hanno degli inediti. È giorno. Esatto, è giorno. Che hanno degli inediti. Per esempio, uno che ci viene sempre a trovare. Poi fai con i greci, ce la fai. No. Vai. Assumiti le tue responsabilità. Allora, pochi sanno che con noi lavorano alcuni cantatori più famosi in Italia. Uno di questi che lavora sempre con noi è Franco Battiato. Allora, pochi sanno. Ora approfitto e ci sono loro. Vediamo se. Avete un coro greco. Sottofondo alla Battiato. Quello che faremo adesso è che vi faremo sentire un inedito di Franco Battiato. Franco Battiato ha scritto una canzone inedita che pochi sanno e che vi faremo sentire. È qui dietro che ci aspetta. È qui. Lo vado a prendere. Esatto, vai a prendere. Franco Battiato, tu lo presenti. E Franco Battiato ha scritto un inedito musicale che ha un titolo che è. Potete a caso? A caso. No, un nome. Il titolo di una canzone di Battiato. Che non esiste, ovviamente. Ipazia. Com'è? Ipazia? Ipazia. Ah, Ipazia. Che sono? Cioè, i femminili dei pazzi. Ok, i femminili dei pazzi. Si chiamano Ipazia. Certo. Ipazia. Quindi, allora, vorremmo far entrare con. Esatto. E vi faremo sentire un inedito. Sì, sono d'accordo, vi faremo vedere come proprio di Franco Battiato. Poi, che si chiama? Ipazia. Ipazia. Ora, non so se c'è una cosa. Da Franco Battiato, certo, venirvi dietro, vediamo come viene. Certo. Questo è un esperimento. E che si chiama? Signori, vorremmo accogliere con la prosopopea che lo contraddistingue, con Ipazia, Franco Battiato. Che incontrano kafkiane memorie sopra dervisci volanti e follia suburbane che non hanno mai dimensioni catalitiche. Forieri. Macedoni che non hanno avuto ancora cucchiaini che arrivano sotto terra. Ed è in questo momento che quella della cucina ci cazia. Non hanno ancora conosciuto queste nostre sedie, mani e membra che arrivano sotto africani. Ed è per questo che arrivano e si chiamano Ipazia. Ich nicht mehr reich, ich nie wieder, ich nicht der, hab ne suburbane memorie che non hanno Knitter, hab ne crepe, conosciuto mai dimensioni sopra delle città. Ed ecco che improvvisamente arrivano sotto i denti qualcosa che non ho mai conosciuto. Ed è per questo che la cameriera ci cazia. Improvvisamente arriva il raiato Lafmani, che anche lui insieme a tutti i dervisci, siccome non ha mangiato, improvvisamente ci cazia, ci cazia, ci cazia, perché tutti noi siamo i pazzi. Siamo soltanto dei pazzi. Beh, questo pensate. Grazie Franco. Grazie. Franco. Allora, che è passato qui da queste parti. E ci ha dedicato. I testi sono sempre molto pieni di significato. Di significato. Ma pochi sanno che c'è anche un altro inedito che possiamo cantare. Ma davvero? Sì, la fatica così, però dai, tanto improvvisiamo. Purtroppo non c'è più, è morto ma noi. Sappiamo che ha scritto un inedito, ricordi? Sì. Fabrizio. Il buon De André, dici. Ok. Il buon De André ha scritto un inedito musicale, che ha un titolo, vero Fabrizio? Sì, certo, che chiediamo, non so se lo ricordano. Sì, vai, una a caso, una frase a caso. Diti un titolo di una canzone che non esiste, vai. Sì, tanto. Anche soggetto, verbo e quello. Guarda, abbiamo sfruttato facile, anche quindi. Che Federico non sapeva tutto questo, ma neanche noi, pensa, è meravigliosa. Diteci una frase qualunque. Eventualmente. È un inedito. Sì. In un CD di postumo. Con la PFM c'è una bonus track. Certo, che è Eventualmente. Che è di Fabrizio. È la PFM. Adesso c'è una cosa proprio super struggente. Il La minore, ormai. Ormai che, che è il classico. Perché vi faremo sentire un inedito. Di Fabrizio Dandini. Di Fabrizio Dandini. Si chiama. Eventualmente. Eventualmente. Penso come sono in difficoltà anche loro. Eventualmente in La minore. Lo la morte che arriva di lontano. Non conosce ostacoli né mente. Nel caso di un suicidio eventualmente. Ecco che di lontano la vedi arrivare. Siamo costretti a improvvisare. Ho chiesto dei soldi, non aveva niente. Facciamolo gratis eventualmente. Quella via ti ho visto una volta sola, che calpestavi morta quella aiuola. Ma di te conserverò nella mente che abbiamo fatto l'amore eventualmente. La morte ci ha preso e ci ha distrutto. Tu che sei di burro pure distrutto, e niente in mente. Io ho fatto l'amore e non t'ho lasciato niente. Caso ti richiamo eventualmente. Beh, questo era. Grazie, grazie ragazzi, da Morico, poracci. Loro, dobbiamo dire che hanno improvvisato loro con noi, noi con loro, senza preparazione, senza niente. Quindi questo è il bello. Tutti appiccicatici dell'improvvisazione.